Per secoli il corpo è stato l'intersezione degli sguardi dei membri del gruppo, della comunità, della società. Il luogo sulla cui superficie questi sguardi si incontravano e definivano e verificavano le norme dell'agire comune e del vivere insieme. Per questo il corpo è stato la sede e l'espressione del conflitto fondamentale dell'essere uomo, quello fra natura e cultura. Un conflitto che naturalmente è tutto interno all'uomo e alla società, ma a cui ci ha fatto comodo spesso attribuire un carattere oggettivo. Oggi i termini fondamentali di quel conflitto non sono più proponibili, né nel modo in cui lo facevano gli antichi, né nel modo in cui lo hanno fatto, pensato e rielaborato i moderni. E quindi oggi è impossibile continuare a definire il corpo con la normalità dello sguardo, perché non esiste più alcun criterio per definire questa normalità. C'è stato un lungo processo nella storia di artificializzazione del corpo, che poi è il processo che ha portato alla costituzione dell'uomo in quanto essere umano, in quanto mantenente un certo rapporto con la sua base naturale, ma contemporaneamente con la fissazione del suo trascendere questa base naturale, del suo diventare completamente uomo. Oggi questo processo di artificializzazione non può più essere ricondotto a una norma di buona socializzazione, di addomesticamento della parte selvaggia che continuiamo a portarci dentro. Questa è l'epoca della diffusione del simulacro, della disseminazione del corpo nelle reti digitali, dell'intrusione umana nei meccanismi genetici. E con questi processi l'addomesticamento è andato così avanti che paradossalmente ha fatto saltare i confini tra i due ambiti che avrebbe dovuto separare, cioè quello della spontaneità, quello della naturalità e quello della cultura, della costituzione dell'uomo in quanto essere umano. Il corpo mutato del prossimo millennio perciò è un corpo selvaggio. È un corpo che ha talmente assorbito e rielaborato i meccanismi dell'artificiale da renderli biologici, da rendere d'un colpo obsoleta ogni distinzione tra la cultura e la biologia. Questa è la mutazione che oggi riguarda il corpo. Ed è un processo così sconvolgente e così dirompente che è impossibile contenerlo nei confini di nessun pensiero, di nessuna cultura della consolazione, di nessuna nostalgia della modernità e di nessuna fantasia ideologica New Age.